AVS Media Demo. AVS Media Demo. In un giorno di maggio, vestito di sole, sentivo gridare AVS Media Demo. Tra mille parole, una voce nascosta e senza coraggio. AVS Media Demo. Io sentivo gridarla in quel giorno di maggio. Quella gente AVS Media Demo. Non stava a sentire, guardavano il sole, volevano partire. AVS Media Demo. Tra quella gente e il grande calore, io vidi una rosa AVS Media Demo. Che aveva dolore, che aveva dolore. AVS Media Demo. Che ti aiutava a portare il lamento agli occhi di chi guarda e non vede, e a chi come loro AVS Media il silenzio lo chiede, e senza vergogna e senza pudore prendevano tutto lasciando il dolore. E senza vergogna, AVS Media Demo. D'amore, calpestavano una rosa tra il vento e il calore. AVS Media Demo. In un giorno di maggio, AVS Media Demo. Vestito di sole, sentivo gridare tra mille parole. AVS Media Demo.